Quando ero piccolo, mia madre, santa donna, mi portava tutti i pomeriggi ai giardini. Ovvi motivi di ubicazione della nostra residenza ci spingevano quasi sempre al Parco Ravizza, ma non pensate, vi prego, all'attuale realtà degradata di quella piccola area verde, ai suoi patri spellacchiati e alle sue discutibili frequentazioni notturne. Nei primissimi anni 50 il Parco Ravizza era un gioiello, folti tappeti erbosi, alberi fronzuti, in perfetta salute, vialetti a ghiaia che non piacere guardarli. Magari sto esagerando un po' dando voce ai ricordi dell'infanzia che tendono sempre ad abbellire le cose, ma possiamo essere ragionevolmente sicuri che la situazione era molto migliore di adesso. Una cosa però me la ricordo con sicurezza, quell'eccellente stato di conservazione aveva il suo prezzo. Sui prati non si poteva giocare a pallone, anzi solo porvi piede era severamente vietato. I cani dovevano starsene buoni buoni al guinzaglio, noi bambini non potevamo sfrecciare con le nostre biciclettine altrove che sull'unico viale centrale, che era asfaltato e che era francamente un po' noioso, e se solo avessimo cercato di svicolare sui vialetti laterali eravamo sicuri che saremmo stati severamente ripresi. Giravano certi grossi vigili vestiti di verde scuro su delle biciclettone nere e minacciavano multe a raffica, e siccome eravamo tutti molto obbedienti nei primi anni 50, a infrangere le regole non ci pensavamo nemmeno. In età adulta sono diventato un po' meno obbediente, ma soprattutto mi sono trasferito più in centro, nelle immediate vicinanze del Parco Sempione, attraverso il quale mi capita di passare piuttosto spesso, e devo dire che è tutto diverso. Quei vecchi divieti, grazie al cielo, sono caduti, sui viali e vialetti, altro che biciclette, passano fior di automobili, il fatto che appartengono in genere alla pubblica amministrazione o ai corpi armati dello Stato non rende il loro effetto sulla ghiaia meno dirompente. Sui prati si cammina, si gioca, ci si siede in circolo e ci si sdraia a coppie, tanto è vero che tra i fili d'erba e le chiazze desertificate prevalgono nettamente questi ultimi. I cani vanno e vengono festosi, segnando il territorio con i loro metodi caratteristici e rendendo il percorso difficoltoso a chi non ama calpestarne gli escrementi. Di alberi è meglio non parlarne, visto che metà sono sul punto di crollare, l'altra metà è già crollata, e se riguardo al laghetto non posso fare paragoni, perché al Parco Ravizza laghetti non ce n'erano, posso assicurarvi che di laghetti tenuti più schifosamente di quello del Parco Sempione è difficile trovarne nei parchi di tutto il mondo. Però è un bel problema. È un bel problema perché lo stato di degrado deriva evidentemente da usura, come a dire dall'uso. Per proteggere l'erba bisognerebbe impedire di camminarci sopra e farci le altre cose che ci si fanno. I cani, se tenuti risolutamente al guinzaglio, non potrebbero sporcare se non nelle apposite aree. I vialetti chiusi al traffico sarebbero più piacevoli da percorrere. Un laghetto a cui nessuno potesse accedere per gettarci schifezze sarebbe meno rivoltante di quanto è adesso. Ma d'altro canto è lecito chiedersi che cavolo servirebbe un parco se non se ne possono frequentare i prati, se è vietato sedersi in circolo con gli amici a suonare il bongo o sdraiarsi con l'amorosa accanto ai cespugli, se è preclusa la possibilità di un'innocua partitella a pallone o a hockey se siete extracomunitari, se in genere bisogna trattarlo con rispetto dovuto a un vecchio zio in cattiva salute. Tra un parco in perfetto assetto e praticamente chiuso all'utilizzazione dei cittadini e un parco utilizzabile ma conciato da travia, non è facilissimo scegliere. Beh, mi direte voi, la contraddizione non è irrisolvibile, basterebbe un po' di manutenzione. Se i tappeti erbosi li falciolo, li semino, li irrigo regolarmente, poi ci può passare un reggimento di ussari senza far danno, e quanto a giocare a pallone li hanno inventati apposta i prati, no? Gli alberi pericolanti basta potarli giudiziosamente, i laghetti ogni tanto li si drenano, la ghiaia dei vialetti si rinnova. Tra le due ipotesi estreme ce ne sarà bene un'intermedia ragionevole che permetta di salvare la capra e i cavoli. D'accordo, il guaio è che quella manifestazione non la fa nessuno, e non la fa nessuno non per mancanza di fondi, perché di soldi sul Parco Sempione se ne stanno profondendo a profusione, basta passarci in questi giorni. Non li si usano però per potare gli alberi, per falciare i prati e per drenare i laghetti. Stanno spendendo una fortuna per recintarlo, povero parco. Nell'indifferenza generale, che chissà perché tutti hanno gridato come matti quando volevano cingere di cancellate Piazza della Vetra, e nessuno adesso fiata di fronte all'idea di mettere in gabbia l'intero Parco Sempione, Invece una bella cancellata è già sistemata sul lato di Viale Alemagna di via Marco Pagano, e i preparativi per installarne un'altra sono alquanto avanzati lungo Viale Svezia e via Legnano. Ancora qualche mese e all'arrivo della primavera i giochi saranno fatti. E perché tanto criminale dispendio di denaro pubblico in un'opera che evidentemente non è quella di cui quell'area ha bisogno? Ma dicono che lo fanno per tenere fuori dal parco di notte gli elementi indesiderabili. Figuriamoci, di elementi indesiderabili nel parco Sempione ce n'è in abbondanza anche di giorno, dentro e fuori dal perimetro della vicenda cancellata, e le tecniche per eliminarli sono evidentemente altre. Io ci ho pensato a lungo, e l'unica ipotesi che mi è venuta in mente nelle mie passeggiatine mattutine è che a certa gente non cessanti le cancellate, le inferriate, le barriere, le trincee, che volete che vi dica, gli piacciono da matti. Sono fatti così. Sull'idea di rinchiudere qualcuno o qualcosa, di stabilire l'ora in cui chiudere i cancelli o di riaprirli, di vietare l'accesso dalle ore tale alle tale altre, c'è gente che misura il proprio potere. E se per ora si accontentano di costruire qualcosa che tiene la gente fuori da qualcos'altro, diamogli un po' di spago e vedrete che cominceranno a pensare a qualcosa per tenerla il più possibile dentro. E in fondo è solo una questione di punti di vista.